Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche in apertura di Alitalia, dopo l'accordo raggiunto ieri tra le banche e Alitalia sul nodo del debito. Non ci sono ancora dettagli, ma insomma sappiamo che la richiesta arrivata da Abu Dhabi era di ridurre di almeno un terzo il debito che Alitalia ha con alcune banche, in primo luogo Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi, se non ricordo male, sono 565 milioni. Ci dovrebbe essere un accordo anche sul fronte degli esuberi, tranne che con la CGIL, ma aspettiamo anche novità e ne parleremo più avanti, perché su 2251 esuberi 660 dipendenti saranno assorbiti in azienda, 680 ricollocati entro dicembre in società esterne e 954 andranno in mobilità. La trattativa prosegue sul tema del contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla riduzione del costo del lavoro, che dovrebbe portare risparmi per 31 milioni all'azienda per gli ultimi sei mesi del 2014. L'attesa per la firma è in questi minuti, doveva essere alle 17, non ho visto agenzie, però chiedo venia nel caso mi sbagliassi, non è ancora iniziato l'incontro per la firma anche con i sindacati, e questo è un fronte. Poi, come sempre, parleremo di borsa, borsa che oggi è debole. A Milano perde l'1,20%, Parigi meno 1, Francoforte meno 0,50, Londra pure, l'America invariata. Da questo punto di vista segnalo che ancora sotto i riflettori, da un lato Monte dei Paschi più 3% e Banco Popolare più 1,40%, con Yux che guadagna il 4,60%. Mediolanum più 0,80, Fiat più 0,80. Il fronte opposto invece vede Mediobanca perdere 4,10%, e poi Autogrill meno 3,30, Telecom meno 3, Buzzi Unicem meno 2,70, Mediaset meno 2,40, Atlantia meno 2,30, Campari meno 2 come Azimut, Enel e Unicredit. Negativa anche Intesa San Paolo, perde l'1,40%. Ci occuperemo anche di noi, tra virgolette, o meglio del mondo delle comunicazioni, perché oggi c'è stata la relazione annuale della GCOM, l'autority di garanzia nelle comunicazioni, da cui emerge, ahimè, lo dico perché ci lavoriamo, un netto calo dei ricavi per tutto il settore delle comunicazioni, che comprende telecomunicazioni, TV, radio, poste, editoria e internet. Allora, il fatturato complessivo è stato di 56 miliardi di euro, se prendiamo appunto telecomunicazioni e tutti i media che ho citato, in calo del 9% rispetto al 2012. Oltre a questo pesa soprattutto il calo dei prezzi della pubblicità in primo luogo, meno 44% negli ultimi 15 anni l'andamento dei prezzi pubblicitari. Drastico calo anche per l'editoria quotidiana e periodica, che ha perso nel 2013 quasi 700 milioni di ricavi. La cosa interessante, anche se negativa, che continuano i calo dei ricavi nella televisione. Si difende la pay TV invece, meno 4,4% la televisione generalista, mentre meno 2% solo la TV a pagamento. Sky resta la regina dei ricavi in Italia, la Rai perde meno dei concorrenti ed è seconda, sorpassando Mediaset. Ma ancora la cosa interessante, dicevo, è che calano anche i ricavi del web, meno 10,9%, da 8,3 miliardi a 7,5 miliardi. Crollano quelli dei periodici, e stiamo parlando di ricavi pubblicitari chiaramente, meno 24%, i quotidiani meno 13%, vanno male anche TV, meno 10%, cinema meno 7%, la radio meno 6,4%, ma ripeto, per la prima volta scende anche internet, meno 2,5%, a dimostrazione che esistono poi numerose diversità, come ricordavo, come sentivate, tra media e media, però tra mezzo e mezzo, però il calo e la contrazione degli investimenti pubblicitari ha riguardato tutti e quindi anche i mezzi più moderni, chiamiamoli così, non perché gli altri siano antichi, ma quelli più nuovi, mi riferisco chiaramente al web. Nella seconda parte del programma invece ci occuperemo delle nomine europee, perché appunto la plenaria del Parlamento europeo ha approvato la nomina di Jean-Claude Juncker come Presidente della Commissione europea, 422 voti a favore, 250 contrari, la maggioranza era di 376. Ma ci occuperemo anche di due notizie di carattere economico che riguardano l'Italia. Da un lato l'inflazione è ai minimi, quindi il timore che l'area euro vada verso, in alcune sue parti soprattutto, il timore che l'area euro vada in deflazione, quindi prezzi in calo, è un timore sempre più forte. Da noi si è fermata la crescita dei prezzi a maggio allo 0,3%, a giugno scusatemi, più 0,3% i prezzi rispetto a un anno prima, contro lo 0,5% di maggio. È il livello più basso quanto a crescita dei prezzi da 5 anni a questa parte. Nel frattempo abbiamo anche altri dati sulla cassa integrazione, che commenteremo nella seconda ora. La cassa integrazione ha toccato un minimo nell'ultimo mese e di questo parleremo, perché sono due dati di carattere macroeconomico che riguardano l'Italia. 349 238 6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook e le altre notizie in breve. Allora, intanto, come sempre dall'economia internazionale, sospeso il South Stream, ossia finché non migliora la situazione a Kiev, non c'è una ripresa di quello che sarà, di quello che è il progetto forse più importante a livello europeo di approvvigionamento energetico. Lo ha ricordato oggi il direttore generale energia della Commissione europea, Dominique Ristori. Ancora per quello che riguarda l'economia internazionale, le vendite al dettaglio americane sono ferme, più 0,2% nel mese di giugno, i prezzi più 0,1% sotto le attese. L'economia migliora secondo il presidente della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, lei è la Janet Yellen, che ha detto l'economia migliora ma la ripresa non è completa, sono ancora preoccupata dal rallentamento della ripresa immobiliare, quindi del prezzo degli immobili, pochi progressi recenti, continuiamo come banca, come Federal Reserve, a monitorare la situazione. JP Morgan ha chiuso il secondo trimestre con un utile in calo di quasi l'8%, comunque un ottimo utile, a quasi 6 miliardi di dollari. L'anno scorso però nello stesso periodo l'utile fu di 6 miliardi e mezzo di dollari. Il numero uno, Jamie Dimon, ha detto: abbiamo visto segnali incoraggianti ma è troppo presto per dire se questo momento continuerà. Utile in aumento invece per Goldman Sachs, secondo trimestre a 2 miliardi di dollari, fatturato fa più 6%, mentre sempre dall'America arriva la notizia che Reynolds American ha acquistato la rivale Lorillard per 27 miliardi di dollari. Direte che cosa fa Lorillard per valere 27 miliardi di dollari? Beh, produce tabacco, sigarette. Nasce quindi un big delle sigarette in grado di sfidare il leader mondiale che è Altria, sarebbe il produttore delle Marlboro. L'accordo potrebbe spingere anche Reynolds nella battaglia contro Altria sul mercato delle sigarette elettroniche. Tutti e due i gruppi sono molto lenti a entrare in questo mercato, ma con l'accordo raggiunto Reynolds ha acquistato anche il marchio di sigarette elettroniche Blu, che in America ha il 40% del mercato. La fiducia degli investitori tedeschi, veniamo all'Europa, continua a scendere. Da 29,8 punti di giugno siamo scesi a 27 punti a luglio. Gli analisti si attendevano un dato migliore, intorno ai 28 punti. Per quello che riguarda invece l'insediamento Juncker, ha detto il neo, a questo punto, Presidente della Commissione europea: la priorità è il lavoro e la crescita, rafforzare la competitività e stimolare gli investimenti. Presenterò nei primi 3 mesi un ambizioso pacchetto per lavoro, crescita e investimenti che mobilizzerà fino a 300 miliardi in 3 anni, e poi ha aggiunto: i margini di flessibilità nel patto di stabilità ci sono e vanno utilizzati. Il patto non lo modificheremo perché la stabilità è stata promessa con l'introduzione della moneta unica, ma esistono margini di flessibilità che vanno utilizzati. E poi l'appello di Juncker: rinunciamo al nazionalismo, perché in Europa si vince e si perde tutti assieme. Bisognerebbe capire a chi era rivolto questo, se era rivolto ai movimenti, diciamo, anti-euro, o se era rivolto a un atteggiamento molto nazionalista della Germania, che pensa in primis a se stessa. Non c'è nulla di male, ma basta riconoscere, basta che per nazionalismo non si intendano solo quelli dei partiti che non piacciono. Comunque, Juncker. Le 25 mai. Il 25 maggio i cittadini europei ci hanno parlato e mandato messaggi forti, anche se contraddittori qualche volta. Oggi e nei prossimi anni dobbiamo dare loro delle risposte. Dobbiamo rispondere alle loro attese, alle loro angosce, alle loro speranze, ai loro sogni. Perché c'è posto in Europa per i sogni. L'Europa non si costruisce contro gli stati né contro le nazioni. Noi, Parlamento e Commissione, agiremo nell'interesse generale, vorrei che lo facessimo insieme. E voglio dire ai governi, a tutti, di resistere alla tentazione di criticare, una volta che tornate nei vostri paesi, le decisioni che avete preso tutti insieme a Bruxelles. Se avete detto sì a Bruxelles, non dite no altrove. Non dite mai, mai più, dopo una riunione del Consiglio europeo, che avete vinto e che altri hanno perso. In Europa vinciamo insieme, ed è insieme che perdiamo. Nous gagnons ensemble, et c'est ensemble que nous perdons. Va bene, basta che lo capiscano tutti. Creeremo un governo economico dell'Unione europea, continua Juncker. Siamo fieri dell'euro, non divide l'Europa, la protegge. Lo spread italiano, veniamo all'Italia, 166 punti, stabile, ieri aveva chiuso a 167 punti, il rendimento del BTP a 10 anni resta al 2,86%, dell'inflazione vi ho già accennato, ne parleremo nella seconda ora del programma. Tra l'altro l'inflazione, però questo vale la pena ricordarlo, l'inflazione e quindi l'aumento dei prezzi per i generi alimentari, beh, siamo ai minimi dal 97, addirittura è il risultato più basso da 17 anni, perché sono calati i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, quindi i generi a maggior acquisto alimentari, ma anche cura della casa e cura della persona, sono calati dello 0,5% sul 2013, quelli del carrello della spesa, quelli alimentari addirittura meno 0,6%. Dicevamo della cassa integrazione: a giugno è crollata a meno 24% rispetto a giugno 2013, autorizzate 74 milioni e mezzo di ore di lavoro, di ore di cassa integrazione. Anche le domande di disoccupazione hanno fatto segnare un calo, meno 20% a maggio, a quota 105.000. Ora, il dato lo analizzeremo più avanti, ma è chiaro che questi dati non possono segnalare che è migliorata da tal punto la situazione dell'occupazione che la disoccupazione, le domande di disoccupazione fanno meno 20%. Purtroppo segnalano più che altro un effetto scoraggiamento, in cui a questo punto il lavoro nemmeno lo cerca. E sulla cassa integrazione ne parleremo più avanti, bisogna capire, ci possono essere elementi anche congiunturali. Vedo molte domande ancora sulle banche, non parlerò di banche oggi, già ho detto abbastanza ieri. Basta diramare i bollettini di economisti e politici, diramiamo le notizie di carattere statistico e previsionali, non facciamo altro. Per quello che riguarda invece gli F-35, segnalo che il Pentagono li ha autorizzati a volare ancora, ma il ministro Pinotti da Farnborough, da Londra, ha detto: non acquisteremo niente che non sia più che sicuro per i piloti e in grado di funzionare. E con quello che ci costano, e in generale aggiungo io, vorrei anche vedere che ci mettessimo con acquistare qualcosa di non sicuro per i piloti e non in grado di funzionare. La corruzione oggi, in occasione della firma del protocollo d'intesa siglato con il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, il ministro all'interno Angelino Alfano ha detto: attueremo la linea dura contro i corrotti usando le stesse misure di prevenzione previste per i mafiosi. E poi Cantone invece ha aggiunto: la stazione appaltante, cioè chi concede l'appalto, dovrà applicare la risoluzione del contratto, quindi cessare il contratto in essere in presenza di fatti corruttivi. Questa è la novità più importante dell'accordo firmato con il Viminale. Quindi il contratto viene interrotto se vi sono elementi corruttivi. Nel frattempo è ai domiciliari l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate della Campania, Enrico San Germano, con le accuse di corruzione, concussione, abuso d'ufficio e falso ideologico. Il GIP ha disposto la misura del domiciliare anche per l'imprenditrice Silvana Pane. L'inchiesta è condotta dalla DDA di Napoli. L'Agenzia delle Entrate ha risposto duramente a questa vicenda, nel senso che ha dato massima collaborazione ai giudici e sta valutando di costituirsi parte civile nel processo. Allora, è chiaro che le mele marce esistono dovunque, però faccio solo notare che da un lato abbiamo il direttore dell'Agenzia delle Entrate della Campania accusato di corruzione, concussione, abuso d'ufficio. La vicenda l'abbiamo già raccontata, l'accusa sostanzialmente è falso ideologico, anche di mettersi d'accordo per evitare i controlli. Dall'altra parte, so che non riguardava necessariamente l'Agenzia delle Entrate, ma se non ricordo male gli ispettori del lavoro, ma qualcuno ricorderà la vicenda del panettiere che mi fece arrabbiare, per non usare un'altra parola, in cui fu trovato, aveva una piccola panetteria, pizzeria, venne trovata la moglie a lavorare, gli fu data una multa di migliaia di euro, questo si suicidò con figli a carico, e dicemmo non che fosse sbagliato il controllo degli ispettori del lavoro, ma in una situazione come quella napoletana andare a prensa col panettiere era indegno, perché in una situazione di alto tasso di illegalità forse parti dall'alto, poi te la prendi anche coi panettieri che fanno lavorare le mogli, ma intanto parti dall'alto. Ecco, invito tutti a fare una riflessione, visto che hanno ingabbiato ai domiciliari in realtà il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, partiamo dall'alto, e poi a quel punto, una volta che parti dall'alto, arriverai anche agli abusi da ispettore del lavoro, perché c'era la moglie che gli dava una mano. Figurati, un reato gravissimo questo in un paese ad alto tasso di legalità come il nostro, soprattutto nelle regioni del nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso arriviamo anche all'Italia, però prima devo raccontare una vicenda. Delle volte questo non è un paese, è un romanzo di Kafka, una vicenda che riguarda di nuovo la Sicilia e di nuovo la situazione sanitaria in Sicilia. Adesso devo andare un po' indietro con la memoria, perché potrebbe essere Kafka, ma anche Gogol. Insomma, voi immaginate un ospedale al mondo in cui i dipendenti, intesi come infermieri, portantini, inservienti, ma anche i medici, i chirurghi e perfino i primari, siano di fatto sconosciuti all'amministrazione? Cioè, uomini invisibili per l'amministrazione? No. Beh, avviene all'ospedale civico di Palermo, sono 2000 dipendenti, ma nel software gestionale non è annotato il loro stato matricolare aggiornato, quindi il possesso dei titoli, l'abilitazione professionale, le specializzazioni, i luoghi in cui hanno prestato servizio in passato e gli eventuali incidenti di percorso. Tutte cose marginali quando vai in ospedale, perché che te ne frega di sapere se il medico è laureato, se l'anestesista ha avuto dei casi, dei processi in corso, incidenti, non importa nulla, noi ci fidiamo. L'anagrafe non esiste e nessuno sa nulla, così se un medico ha ucciso per sbaglio, ucciso forse un po' forte, ma insomma, un paziente, o è stato condannato per corruzione e mafia, magari anche un impiegato, continuerà a lavorare tranquillamente in assenza di ogni annotazione nel suo stato di servizio, a meno di segnalazioni precise e mirate. Pensate che lo stato matricolare all'ospedale civico di Palermo è vuoto, cioè non si sa che cosa hai fatto prima, durante la tua vita lavorativa, per il 98% dei dipendenti parasanitari, quindi non sappiamo se qualcuno è condannato per mafia, per furto, per ricettazione, e per il 30% dei medici. È una comunità senza volto, è l'uomo invisibile, che lavora nelle corsie degli ospedali, opera, fa interventi, porta barelle, fa assistenza, e comunque è l'ospedale più importante di Palermo. Ora, la denuncia, una volta tanto, arriva dal neo direttore generale del Civico, Giuseppe Migliore, che ha denunciato che ci sono tradizionali carenze di personale in anestesia nell'area di emergenza, e non si sa se tra i medici e gli infermieri utilizzati in altri servizi meno essenziali ve ne siano alcuni con i requisiti per gestire queste emergenze. Perché oltretutto, oltre a non sapere, diciamo, che hai fatto nella tua vita professionale, diventa impossibile anche capire se esistono dei reparti in sovrannumero da cui potresti spostare infermieri o medici con una determinata qualifica verso le aree, appunto, dell'anestesia e nell'area dell'emergenza del pronto soccorso. Migliora, però, questa è ancora più bella, perché ha scoperto che il software commissionato a fine 2000 dall'ospedale non è mai stato usato. Quindi non è che manchi il software. Il software c'è, è che poi il software da solo non ce la fa, devi accendere il computer, immettere i dati, cioè non riesce ancora a lavorare da solo il software. E qui bisogna spiegarlo anche all'ospedale civico di Palermo. Quindi viene gestito nel buio più totale delle competenze professionali, affidato alla concertazione dei sindacati. Ora voglio dire una cosa, ma i sindacati, che hanno sempre qualcosa da dire, ma perché in questo caso non hanno mai denunciato nulla? Voglio dire, CGL, CISD, UIL, allora, siete presenti a Palermo, non volete l'accusa di difendere sempre i dipendenti pubblici o comunque chi lavora in pubblico impiego? Ecco, iniziate a denunciare queste cose. Perché dobbiamo farlo noi? In un mondo normale, il sindacato che tutela i lavoratori onesti, quelli che vengono fregati dal fatto che il 98% dei dipendenti parasanitari non abbia nemmeno una traccia di quello che ha fatto nella vita, di quello che ha commesso o dei meriti che ha avuto, perché i sindacati non lo denunciano? Ma perché non sento mai una riflessione seria fatta dalla CISD, dalla UIL, dalla CGL sulle mele marce al loro interno? Adesso parleremo dell'Italia, ci arriviamo, ma dico, è mai possibile che la denuncia la faccia il direttore generale, giusto, e non c'è uno straccio di sindacalista che in questi anni ha visto nulla, ha detto nulla? Ma che sono le tre scimmiette, non i tre sindacati, adesso non me ne vogliono, è una battuta, ci mancherebbe, perché uno non vede, l'altro non sente, l'altro non parla. Allora, i sindacati non hanno mai denunciato nulla, e nemmeno i primari, che sappiamo come funziona. Adesso non voglio cadere nei luoghi comuni, ma le baronie non me le sono inventate io. I primari diventano a questo punto i padroni dei reparti. Essendo figli di un primario, forse non di un padre padrone, ma un primario, forse sappiamo anche come funziona. Quando manca la macchina amministrativa, è chiaro che poi de facto è il primario che gestisce il reparto senza nessun controllo. Meno male che Migliore ha spiegato che la nuova amministrazione ha chiesto a tutti i dipendenti di compilare in internet il proprio stato di servizio matricolare in modo da raccogliere tutte le informazioni. Poi naturalmente avvieremo i controlli a campione, ha concluso il neo direttore generale. Io mi auguro che questi controlli a campione arrivino, ma a questo punto, visto che il tempo non manca, potete fare anche i controlli non a campione, voce per voce, visto che ormai per anni il 98% dei dipendenti e il 30% dei medici risulta senza passato, l'uomo senza memoria, l'uomo non senza qualità. Quello era Musi. Avete ragione, era Gogol con le anime morte. Sì, queste non sono morte, sono vivi, per fortuna loro, Però vorremmo anche sapere che cosa hanno fatto nella vita in precedenza. Qualcuno mi scrive sui sindacati, non ho nessun problema. Questo è il motivo per cui il nostro sogno di oggi è questo. È un paese normale in cui chiaramente nell'ospedale principale di Palermo non vi siano 2000 dipendenti senza traccia, ma è anche un paese normale in cui i sindacati, tutelando i lavoratori, i diritti dei lavoratori, ci mancherebbe, denuncino tutti i casi in cui i diritti dei lavoratori onesti vengono violati. Non vedo segnalazioni, ma dove sono finiti i sindacalisti degli anni 60, degli anni 50? Delle lotte agrarie, non c'è più quel mondo, ci mancherebbe, per fortuna non c'è più, ma la lotta si può fare, la lotta al sommerso si può fare. E allora le denunce, vogliamo vedere le denunce e sapere perché nessuno dei sindacati, che sono sempre pronti a incrociare le braccia anche l'ospedale civico di Palermo ha sporto denuncia per un fatto scandaloso, ossia che il software dal 2000 al 2014, sono passati 14 anni, a nessuno è venuto in mente di dire scusate, ma non è possibile che non si sappia se un medico ha sbagliato 4 operazioni mandando 4 pazienti all'altro mondo, o se un infermiere o un parasanitario è accusato di reati gravi nei confronti della pubblica amministrazione. Non è possibile, servono a questo i software. Vabbè, aspettiamo con calma poi le accuse dei sindacati. Intanto noi mandiamo il meteo e la pubblicità e poi parliamo di Alitalia, dove i sindacati stanno svolgendo correttamente il loro ruolo e si è arrivati probabilmente, da quello che capiamo, anche all'accordo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mi scrive un ascoltatore, mi fido, dice che abita vicino a Eddie, il famoso panettiere, ahimè famoso, suicida, e dice che l'agenzia delle entrate per 300 euro gli ha fatto pagare 760 euro. Allora io non so, non conosco che cosa gli venisse contestato, Però mi aspetto, diciamo, che le punizioni siano veramente dure, ma non come vendetta, nel senso che qua hanno arrestato non il direttore o l'impiegato minore, è il direttore dell'entrata della Campania. Allora, no? Cioè, fosse una regione in cui c'è un alto tasso di fedeltà fiscale, fosse un paese in cui... Ma è gravissimo questo, a maggior ragione visto che poi con i piccoli, io non ho nessun problema a dirlo, con i piccoli la voce si fa grossa e invece con i grossi delle volte la voce si fa piccola. Poi mi scrive un ascoltatore che dice vai Barisoni che sei solo, non è che mi conforti la cosa, però vabbè, non è mica il Tour de France. Allora invece all'Italia forse si arriva alla volata, per usare un linguaggio ciclistico, finale. Perché? Perché l'accordo raggiunto ieri con le banche sul mondo del debito è un accordo in cui dovrebbe essere rinegoziato un terzo dei 565 milioni. Oggi è arrivato a Roma l'amministratore delegato di Etihad, James Hogan, che domani presenterà il nuovo volo Roma-Abu Dhabi, inteso come Etihad, quindi non come all'Italia, e incontrerà l'amministratore legato dell'Italia Gabriele Del Torchio, ma anche il ministro Lupi. Poi vediamo cosa faranno le poste, perché il numero delle poste italiane, Francesco Caio, oggi ha detto non escludo nulla, nel modo più assoluto stiamo ancora lavorando e vediamo come evolve la situazione. Abbiamo dato la disponibilità, apprezziamo lo spirito costruttivo del tavolo. Lo dico perché, secondo quanto riporto oggi sulle 24 ore, al momento vi sarebbe un no delle poste per entrare e sottoscrivere il cosiddetto equity commitment, ossia l'impegno economico in caso di sopravvivenza di oneri derivanti da precedenti contenziosi o di perdita nel 2014 superiore al budget di inizio anno, che Etihad ha chiesto agli azionisti che rimarranno nel capitale della vecchia Italia. Sono a meno 200-300 milioni. Comunque, Gianni Dragoni, aiutaci tu, buonasera. Sì, va. Allora, si arriverà all'accordo, l'unico scoglio rimasto, mi sembra di poter dire, è quello dei sindacati. Non ho capito bene la posizione della CGIL, anche perché ho visto dichiarazioni di Lupi che dice aspettiamo la risposta della CGIL per domani mattina. Ho letto le ragioni e si dice non contraria all'alleanza tra l'Italia e Etihad, ma aggiunge Lupi, attenzione, il non contrario non funziona. Gianni? Siamo ancora sul filo delle trattative, di qualcosa che manca, devo dire anche il fronte bancario, le maggiori banche hanno detto abbiamo raggiunto l'accordo, ma la più piccola, la Popolare di Sondrio e penso anche il Monte dei Paschi non hanno ancora detto sì all'accordo, hanno 90 milioni ciascuno i crediti verso l'Italia, quindi anche quello è un fronte non ancora del tutto completato. La posizione della CGIL è quella di, cioè, non soddisfatta del tipo di accordo sugli esuberi che è stato presentato, per cui la variabile poste, una piccola variabile bancaria, la variabile CGIL, direi che c'è ancora un po' di suspense fino all'ultimo, fino a domani. Sì, però domani è domani, nel senso che noi continuiamo a dire la settimana prossima. Mi ricordo la prima data, vado a memoria, fu metà maggio si chiude. Per carità, insomma, non è che ci sia una fretta indiavolata, ma neanche tutto questo tempo. Cioè, domani è domani, Gianni? Non è necessariamente domani, l'ultimo giorno, perché sono tutte scadenze. Era soprattutto Lupi che dava questi termini, poi le banche eccetera. In realtà Hogan, che è un po' il padrone di questa situazione, perché ha posto una serie di condizioni che piano piano tutti stanno cercando, come dire, di lavorare per cedere, dire, ha dimostrato anche di avere una certa pazienza in fondo. Sa aspettare, punta, diciamo, ad avere una l'Italia. Beh, dai, adesso, senza debiti, adesso, e quindi può aspettare anche qualche settimana in più per lui. È l'Italia che forse più tempo passa e più rischia di vedere aumentare il suo debito, le sue perdite, e quindi di indebolirsi. Adesso io non conosco Hogan, non mi sta né simpatico né antipatico, però ok, è paziente perché ha un boccone bello grosso, se gli riesce l'accordo. E dico boccone bello grosso non solo perché l'Italia, al di là dei conti, comunque rappresenterebbe un salto di qualità per Etihad, non dimentichiamolo, perché adesso voglio bene a tutti, ma fino adesso Abu Dhabi è riuscito ad avere Air Serbia, no? Cioè adesso all'Italia è un altro paio di maniche. E comunque te la vai a giocare più famosi, anche se la compagnia sì, non è vabbè. Più così come era anni fa. Ho capito, però le rotte, Gianni, le ha e ha tutto, però. E ha comunque un aeroporto che si chiama Malpensa, uno che si chiama Fiumicino, poi c'è Rinat e quant'altro. Il secondo aspetto è che può aspettare pazientemente, perché se gli riesce un colpaccio, diciamo, che non è mai riuscito e forse non sarebbe mai riuscito a un italiano, Gianni, questo possiamo anche dirlo. Cioè, Hogan ha ragione nel dire: io compro, metto 560 milioni di euro per il 49% dell'Italia, a patto che i contenziosi precedenti non me li ritrovi sul gobbone. E poi che gli esuberi siano quelli che ho chiesto, 2004, poi abbiamo spiegato anche come verranno in realtà questi 2251 esuberi, e che le banche rinunciano almeno a un terzo del credito che vantano. Forse un italiano non sarebbe riuscita, con un'Italia probabilmente non così in ginocchio. Ma diciamo che gli italiani, l'operazione era riuscita sostanzialmente simile nel 2008, perché quando presero l'Italia pubblica i debiti rimasero dentro la bad company, in sostanza dentro alla collettività, allo Stato, certo, ai piccoli azionisti, e furono da 7.000-10.000 persone che persero il lavoro di quella società, solo che non era uno, erano tanti, non hanno poi, diciamo, mostrato di avere una strategia di investimento nel lungo termine, ma piuttosto di conservazione per l'idea di vendere Air France. Questo poi non si è concretizzato. Oggi probabilmente non c'è nessuno che sarebbe neanche disposto a rischiare. Vabbè, se no, fosse stato, forse si sarebbe presentato. Beh, di capitani coraggiosi non vedono i patrioti, no? Se ricordo bene, li chiamo così. Berlusconi, a mio avviso, non vedono l'ora di uscire dall'Italia, perché insomma, hanno perso tanto in questi. Ma né loro né altri nuovi, no, penso sarebbero disposti a investire. Comunque, superato lo scoglio, fammi capire una cosa, perché me la chiedono gli ascoltatori, però gli esuberi, allora sono 2251, però 661 dipendenti saranno assorbiti in azienda, 681 ricollocati entro dicembre in società esterne, 954 andranno in mobilità. Ma scusami, sono gli esuberi? No. Sì, intanto non capisco, se 660 sono riassorbiti in azienda, non sono più esuberi, cioè esci allora, dalla porta girevole e vieni riassorbito, non sei più un esubero a casa mia. Non capisco l'italiano proprio. Sì, nello spacchettamento del numero degli esuberi, questa proposta viene presentata come se venissero ridotti. In realtà, secondo me, questo punto, dico anche a me, non è chiaro, perché riassorbiti, ma una parte poi prepensionati, quelli da ricollocare dovrebbero essere ricollocati con questo nuovo strumento introdotto dall'ultima legge di stabilità, e sarebbe la prima volta che si verifica, quindi lo potremmo dire una volta avvenuto il ricollocamento, se non saranno più esuberi o meno. i primi 600 da riassorbire non è ben chiaro, devo dire, ho letto quello che viene detto, quello che viene comunicato, ma non è ben chiaro questo riassorbimento cosa voglia dire. Forse qualche centinaio meno di esuberi ci sono, ma credo che non si scostino molto dal numero iniziale. Allora, la mia valutazione. Visto che tu sei in collegamento da Farnborough, da Londra, in provincia di Londra, ieri eravamo con Massimiliano Zampini per commentare le parole di Moretti, però oggi dal Salone dell'Aerospazio, Aviazione Civile, Militare e Difesa, più importante al mondo, ripeto, un anno è in Gran Bretagna, un anno è in Francia, Le Bourget, oggi è intervenuto anche il nostro ministro alla difesa Pinotti. Vorrei un tuo commento, perché tu l'hai anche vista, ma insomma ha detto attenzione, perché dall'America è arrivata la notizia che il Pentagono ha autorizzato a volare gli F-35, i famosi aerei militari, su cui c'è molta polemica in Italia per i costi. Il ministro Pinotti ha detto non acquisteremo niente che non sia più che sicuro per i piloti in grado di funzionare. Voglio dire, vorrei anche vedere il contrario, però la sensazione che tu hai avuto è che ci sia molta più freddezza sugli F-35? Ma penso che con questa frase il ministro abbia voluto eludere la questione se ci sarà o no un taglio rispetto al programma già ridotto di comprarne 90. Ha detto per il momento ne abbiamo comprati 6, quindi in questo modo ha un po' eluso, non si sapeva ancora, era stamattina che il Pentagono ha alzato, rimosso il divieto di volo, almeno diciamo parziale, su questi aerei, e quindi in realtà l'intenzione di cui si è parlato in sede politica di tagliare la commessa, siccome è passato forse un po' il messaggio che la commessa potrebbe essere tagliata a 45 aerei da comprare, finora l'Italia ne ha comprati con un contratto scritto 6, è passata, però non è stata attuata, è tutto un discorso molto programmatico, generico. Mi risulta che dagli Stati Uniti siano arrivate anche di recente delle sollecitazioni a dire voi gli aerei dovete rimanere nel programma se volete rimanere degli alleati anche del sistema di difesa americano o da NATO. Il ministro Pinotti ha detto anche, come ha detto ieri Moretti di Finmeccanica, con gli Stati Uniti stiamo parlando di avere un maggior contenuto tecnologico e più lavoro per costruire gli F-35. La mia valutazione è che se questo discorso di un accordo, di migliorare gli accordi per cui l'industria italiana possa fare più lavoro di quello abbastanza scarso che è stato riconosciuto finora, forse la discussione sul taglio della commessa potrebbe perdere sostenitori e quindi si potrebbe andare avanti nel piano di acquisti come a 90 euro. Allora, nel frattempo, in bocca al lupo a Finmeccanica, io tifo sempre italiano, Italia, perché oggi assieme al ministro Pinotti, l'amministratore delegato Mauro Moretti ha detto che appunto con la certificazione dell'aeronautica militare italiana, cosa succede in campo militare? È sempre importante che il velivolo o l'apparecchio che tu vai a vendere sugli altri mercati sia stato adottato dalla tua marina militare o aeronautica militare o esercito, perché è una garanzia in più della bontà del mezzo che vai a vendere, della affidabilità del mezzo che vai a vendere. Allora, con la certificazione dell'aeronautica militare italiana, il nuovo elicottero Augusta Western AW-149 rientra completamente nelle gare internazionali e in bocca al lupo perché c'è una maxi gara in Polonia, a cui parteciperà anche Augusta Western, per un valore di 3 miliardi di dollari. Grazie a Gianni Dragoni in collegamento con noi da Farnborough. In diretta per commentare adesso la borsa. Allora, come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore, meno 1,30% Milano, meno 1% Parigi, meno 0,65% Francoforte, meno 0,50% Londra, meno 0,10% l'America. E allora Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Anche oggi divergenti le banche, la peggiore è Mediobanca, meno 4,40%. Sì, divergenti le banche, ci sono indicazioni di opposto segno. Da una parte il Banco Spirito Santo continua a essere nella bufera, ha perso oggi quasi il 15%, d'altra parte invece negli Stati Uniti i conti di alcuni big sono stati tutto sommato positivi. Per quanto riguarda Mediobanca inoltre c'è una questione contingente, oggi è uscito un report di Morgan Stanley sull'intero settore bancario italiano e Mediobanca è una delle azioni che gli analisti consigliano di ridurre il peso in portafoglio, quindi oggi il titolo è stato assolutamente tra i peggiori, ha chiuso in calo del 4,4%, ma tranne alcune popolari e il Monte dei Paschi anche tutte le altre banche hanno chiuso in rosso. E infatti tranne il Monte dei Paschi, come tu ricordavi, che però cito, più 2,70% il Banco Popolare, più 1,40% la Pop Emilia Romagna, più 0,30%, le altre hanno chiuso in rosso. Nel caso specifico Intesa San Paolo meno 1,60%, Pop Milano meno 1,5%, Unipolsai meno 1,40% come generali, Ubibank meno 1,20%, sto dimenticando qualcosa, non mi sembra. Andiamo avanti, Iux più 4,26%. Iux è stato il miglior titolo fin dall'avvio, viene da un trend negativo che dura ormai da alcune settimane, quindi gli investitori evidentemente hanno ritenuto che è diventato conveniente riposizionarsi sul titolo, aiutati in questo dal giudizio degli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno alzato la raccomandazione su Iux. In ogni caso appunto si tratta soprattutto di un movimento tecnico e i recenti cali hanno reso evidentemente conveniente l'azione Iux secondo molti investitori che oggi hanno comprato. Ancora due titoli oggi molto debole: Telecom Italia meno 3,15% da un lato, e per quello che riguarda un altro titolo in netto calo è Autogrill meno 3,60%. Abbiamo 30 secondi, quindi sostanzialmente vi do gli altri titoli e poi la risposta dopo il GR24. Anche Atlantia perde il 2,60%, Campari il 2,5%, Mediaset come Enel il 2,30%, Azimut meno 2,1% e Prismian l'1,5% di calo. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18 e 8 minuti riprende Focus Economia. Allora, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con i titoli che ho letto, ma anche e soprattutto con Telecom Italia meno 3,15%. Paolo Paronetto. Sì, Telecom Italia è stato sotto i riflettori oggi, come al solito il mercato si interroga da una parte sulle possibili strategie, il possibile destino della controllata brasiliana Team Brasil, dall'altro continuano a pesare i dubbi sul business domestico. Oggi è un report di Credit Suisse che si interroga proprio sul destino di Team Brasil e fissa dei target differenziati a seconda proprio di quello che sarà la decisione sulla controllata brasiliana. Secondo Credit Suisse Telecom vale 0,95 euro per azione se venderà Team Brasil e 0,75 se non la dovesse vendere. Oggi il titolo quota più o meno a metà strada a 0,84 euro. D'altra parte gli analisti hanno puntato il dito sul business domestico che secondo loro continua a essere sopravvalutato da parte di Telecom Italia e anche per questo si spiega appunto il calo di oggi delle quotazioni del titolo. Grazie, mi mancano solo i migliori e i peggiori. Seat pagine gialle più 6,67, Cosuntec più 7,11. Tra i migliori, i peggiori, P-Quadro meno 6%, Screen Service meno 10%, High Real meno 14,60%. Grazie Paolo Paronetto. Noi restiamo in tema di ricavi, però per parlare, come anticipavo anche di noi, ho commesso un errore, avete ragione, ho detto il media invece che il medium, allora chiamiamolo mezzo, e purtroppo i dati diffusi oggi dalla GCOM, dell'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, evidenziano soprattutto un calo generale dei ricavi per il settore comunicazioni, sia per quello che riguarda le telecomunicazioni, sia la televisione che la radio, le poste, l'editoria e anche per la prima volta internet. Allora, vediamo se riusciamo almeno con questa base a rivitalizzare il settore. Dubito fortemente perché i cali sono stati, non siamo ancora a venerdì, lo dico in regia, poi venerdì potete scatenarvi, però insomma. Allora, i cali sono stati del 9% complessivo, i ricavi sono arrivati, il fatturato è sceso a 56 miliardi di euro per il settore. Ma oltre alla crisi pesa anche il calo dei prezzi, prezzi della pubblicità, meno 44% negli ultimi 15 anni. Nello specifico, periodici meno 24% come fatturato, quotidiani meno 13,2%, TV meno 10%, radio meno 6%, cinema meno 7% e per la prima volta anche internet. Marco Mele del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, insomma, la notizia che tutti pubblicano è chiaramente il calo per la prima volta anche di internet. Vale la pena ricordare che si difende meglio la pay TV rispetto alla TV generalista e Sky resta la regina dei ricavi. La cosa che più ti ha sorpreso è invece quella che ti aspettavi, Marco, visto che tu sei l'esperto anche del mondo delle telecomunicazioni. Per il sorpreso, la perdita dei ricavi era già abbastanza nota. Insomma, le dimensioni, già i quotidiani, i periodici, la federazione degli editori aveva reso note il loro calo, che è meno 13% per i quotidiani e meno 24% anno per i periodici, che è enorme, insomma, è una perdita praticamente enorme, soprattutto paragonata agli altri, cioè nel senso la televisione ha perso il 10%, che già è molto meno rispetto avendo una quota del 43,7% la televisione, è enorme. I quotidiani hanno perso il 13,2% e hanno un'incidenza sul totale che è simile, hanno ancora quotidiani e periodici hanno una quota superiore a internet al 19,7% di pubblicità, quotidiani e periodici insieme al 23%, ma siamo vicini al sorpasso. Molto più, sì, purtroppo. Purtroppo dipende dal punto di vista. Se uno lavora in internet, ha perso il 2,5, ma sta al 19,7 di quota. I quotidiani hanno perso il 13 e stanno al 13 di quota. Questo fa l'altro, se non si sono sbagliati, perché la cifra è uguale, 13,2, mentre i periodici hanno perso il 24 e stanno al 10% di quota. Ecco, quindi internet è già il secondo mezzo dietro la televisione. Io dico purtroppo né per fortuna, cambia il mondo e bisogna che cambino anche i giornalisti, oltre che i manager e le altre cose. Parecchio, siamo d'accordo. Sì, molto. Senti Marco, una cosa però, quando noi parliamo di calo, in alcuni casi crollo dei fatturati, e ci riferiamo sempre o quasi esclusivamente ai ricavi da pubblicità o ci sono invece anche dei costi che sono aumentati? Dunque, qui i costi non sempre sono imputati, mentre i costi delle telecomunicazioni sono abbastanza, i costi e i prezzi delle comunicazioni sono ben misurati, il prezzo della pubblicità in realtà sì, il prezzo della pubblicità sta decrescendo, ma non ci sono dati precisi sui costi e i prezzi, ci sono i ricavi complessivi delle emittenti. Comunque non c'è dubbio che il costo dei diritti è comunque rimane molto elevato per le emittenti. Se si pensa che Mediaset spenderà per la Champions League dal 2015 una somma superiore ai 600 milioni, che sono circa i suoi introiti da PTV di un anno, per un solo evento in 3 anni, quindi i costi sono sempre elevati per i diritti, i costi invece per personale, organizzazione interna, gli altri costi, ci sono dei forti tagli dovuti al fatto che i ricavi diminuiscano. Ecco, c'è qualche teoria che sia nella TV. C'è qualche attesa, e invece qui c'è un mio auspicio, che i prezzi della pubblicità, quindi gli investimenti, perché non è solo un problema di quanto investono i gruppi, le aziende, sono i prezzi praticati, meno 44% in 15 anni, la dice lunga. Dicevo, c'è qualche segnale che possono tornare a crescere i prezzi praticati per la pubblicità e quindi anche i ricavi dei gruppi delle telecomunicazioni? Dunque, sono due cose diverse, secondo me. Allora, la pubblicità dei mezzi è una cosa, i mezzi, ricavi dei mezzi tradizionali rispetto alla telecomunicazione sono diversi. Dipende molto dal fatto, secondo me, che si trovino nuovi investitori nel settore, come adesso Telefonica per Mediaset Premium, cioè che si rilancino gli investimenti sul prodotto, nei servizi, e a quel punto, se si rilanciano i contenuti dei mezzi e i servizi offerti da questi mezzi, si può anche pensare a un riavvicinamento, a un riallineamento dei Perché i listini sono, non sono bassi, per me si fanno sconti sui, sui listini. C'è un conto il prezzo nominale e poi quello realmente praticato. Ma c'è una concessione molto grande che fa anche il 90% di sconto. Magari vicino alla RAI? No. Magari vicino alla RAI, sì, non è, diciamo, non è pubblicità. Ho capito, però questo fra l'altro è una cosa legittima dal punto di vista di un'azienda, ma distrugge un settore. Cioè distrugge tutti gli altri operatori. Sì, in altri casi parleremo di dumping, lo dico con massimo rispetto per la RAI, perché è chiaro che quando tu hai anche dei, mi sembra che sia un miliardo, quasi un miliardo quello che la RAI ottiene dal canone, però non vorrei dire un'inesattezza. No, di più, 2 miliardi. 2 miliardi, ecco, per cui era un'inesattezza al ribasso. Quando tu hai anche ricavi da altre voci e ce l'hai solo tu, il canone, beh, è chiaro che puoi anche, tra virgolette, permetterti di praticare prezzi che, ripeto, in altri settori a piena concorrenza chiameremo di dumping, cioè quando ci sono prezzi che vanno a spaccare completamente un mercato perché chi li pratica può permettersi, nel caso del dumping classico sono gli aiuti di Stato, ne abbiamo parlato molte volte sull'Asia, ma in questo caso non dico che siamo al dumping perché è tutto legale, ci mancherebbe, ma ci andiamo molto vicini, anche perché uno dei soggetti che concorrono riceve il canone e gli altri no. Grazie Marco Mele. E con questa base, che non posso dire come si chiama perché ci sono i minori in ascolto, Accogliamo Juncker, molto contestata inizialmente, soprattutto dagli inglesi, la sua nomina. Non è che qua stiamo a impazzire, rappresenta Lussemburgo. Interessante che Juncker, che è stato anche il numero uno del Lussemburgo, ha detto che una delle sue priorità sarà la lotta all'evasione fiscale. Beh, insomma, ne sa qualcosa. Non che lui la faccia, ma ne sa qualcosa su come funziona. Il Lussemburgo infatti è un paese, diciamo, che ha delle norme molto attente sull'evasione fiscale. Allora andiamo avanti invece, perché sennò già polemizzare appena nominato non va bene. Ha beccato più voti di quanto necessario, 422 voti a favore, 250 contrari, la maggioranza era di 376. Dice Juncker: creeremo un governo economico dell'Unione Europea, saremo rigorosi con le riforme strutturali ma gli stimoli per aiutarle. La crisi n'est pas terminée tant qu'il y a 25.000. La crisi non è terminata finché ci sono 25 milioni di uomini e donne disoccupati in Europa. La crisi finirà quando sarà messa di nuovo in moto l'occupazione. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo coordinare meglio le nostre politiche economiche. Dobbiamo creare un governo economico dell'Unione Europea. Lo faremo. E dobbiamo continuare a essere esigenti e rigorosi con la messa in atto delle riforme strutturali, che nel medio termine contribuiranno alla crescita dell'economia europea. Se tutti gli Stati dell'Unione faranno gli sforzi necessari, dovremo riflettere su stimoli finanziari per accompagnare questo processo e dovremo anche riflettere sulla creazione di una capacità di bilancio propria dell'Eurozona. Dobbiamo anche riflettere su quanto sia ridicolo che una delle monete più forti del globo sia rappresentata da molteplici rappresentanti che spesso si contraddicono tra di loro. Vorrei che l'Unione Economica e Monetaria e anche l'euro siano rappresentati da una sola sedia, da una sola voce nelle istituzioni di Bretton Woods. E poi ha aggiunto Juncker: creeremo, bisogna rinunciare ai nazionalismi, siamo fieri dell'euro, non divide l'Europa ma la protegge, i miei modelli sono Delors, Mitterrand e Kohl. Devo dire che Mitterrand e Kohl e Delors sono modelli alti, anche perché Jacques Delors fu il primo a parlare di, se non ricordo male, investimenti di carattere europeo, la pianificazione non di eurobond in senso stretto, ma del fatto che vi dovessero essere degli investimenti non conteggiabili nei singoli deficit. Quindi vediamo come si muoverà Juncker. Il nostro Sergio Nava ha seguito tutta la votazione e ci dà anche un aggiornamento sulla, tra virgolette, vicenda Mogherini. Sergio, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. Beh, allora, diciamo che un discorso in pieno stile Juncker. Juncker arriva da un partito, ricordiamo, cristiano sociale lussemburghese, attivo da più di 20 anni sulla scena europea, per cui ha sostanzialmente detto e promesso quello che ci si attendeva da lui. Lo ha fatto da europeista, questo è indubbio. Interessante notare questa sua promessa di mobilizzare fino a 300 600 sì. miliardi in investimenti pubblici e privati nell'economia reale nei prossimi 3 anni. Allora, proposta molto interessante, ma va fatta, coordinata e messa in pratica, perché voglio ricordare che nel giugno 2012 gli allora 27 leader europei fecero un piano per la crescita a 120 miliardi, c'era ancora c'era in carica il premier Monti, e a distanza di 2 anni di quel piano per la crescita non abbiamo molte tracce. Quindi si tratta, forse stavolta partirebbe dalla Commissione Europea l'iniziativa, e potrebbe avere qualche chance in più, però bisogna stare attenti a questo. Ecco, ha anche ricordato una cosa che a noi interessa molto da vicino, che nominerà un commissario per l'immigrazione. E questo è importante, ha detto una cosa molto interessante sull'immigrazione, perché ha ammesso l'attuale inutilità di Frontex, cioè dell'Agenzia Europea, ha detto con un budget di 90 milioni di euro all'anno non può fare praticamente nulla. Servono guardie di frontiera. Ma ci paga solo i dipendenti, dice. Beh, la stessa commissaria Malmström non più tardi una settimana fa diceva, quando Alfano ha detto Frontex deve rilevare Mare Nostrum, ha detto noi ci facciamo 2 settimane di Mare Nostrum col budget di Frontex e poi il resto è scoperto. Quindi ha dimostrato una sensibilità importante. Dicevi prima della Mogherini, domani dovrebbe, sì, almeno così spera il governo Renzi, farcela, però a minoranza di blocco parliamo di 11 paesi, quasi tutti dell'est Europa. E quindi non è così scontato. Il sottosegretario degli affari europei Gozzi diceva se nel caso la porremmo a votazione, così come è stato fatto tra l'altro con Juncker, dice Gozzi, abbiamo il sostegno di tutti i leader socialisti, sarà interessante vedere. Tra l'altro è l'unica nomina, diciamo, quella dell'alto rappresentante praticamente certa domani sera, poi Eurogruppo e Presidente del Consiglio Europeo invece potrebbero alla fine non uscire. E questo per quello che riguarda l'aspetto appunto della candidatura della Mogherini. Dicevo, un discorso in piena regola, in pieno modello europeo, lo ricordavi anche tu. Sui modelli vorrei chiudere, vorrei far sentire questo passaggio di Juncker proprio sui modelli a cui si ispira. Lo ha detto in un intervento durato oltre un'ora e contestato, lo ricordo per dovere di cronaca, anche dagli euroscettici. I modelli a cui si ispira, il Pantheon di Juncker. Vorrei un'Europa che gioca in avanti, un'Europa che vince, un'Europa che protegge, un'Europa che sia un modello per gli altri. Per fare ciò ispiriamoci ai principi e alle convinzioni che ci hanno lasciato i grandi europei che erano protagonisti quando noi invece non c'eravamo ancora. Voglio rendere omaggio a Jacques Delors, grande presidente della Commissione. Delors è mio amico, mio maestro, e la sua opera mi ispirerà sempre. Rendo omaggio anche a François Mitterrand, che disse che i nazionalismi portano alle guerre. Mitterrand aveva ragione. Rendo omaggio a Helmut Kohl, che fu il più grande europeo che ho avuto la fortuna di conoscere. Facciamo come loro. Avevano pazienza, coraggio, determinazione. E con pazienza, coraggio e determinazione si fa molta strada e si raggiungono gli obiettivi. Insieme possiamo fare grandi cose per l'Europa, per i suoi cittadini e per il mondo. Allora, si aggiornava un'ultima chiosa, le altre nomine, ammesso non concesso che domani arrivi quella della Mogherini, buonanotte, fine luglio? Difficile dirlo, dovrebbe arrivare, insomma, quella dell'Eurogruppo, si spera, anche perché appunto è una poltrona importante e potrebbe esserci il popolare De Guindos. Sarà importante capire chi Juncker designerà invece agli affari economici, potrebbe essere un socialista, si parla di Moscovici, ma c'è anche il finlandese Kaitainen, che è l'erede diretto di Olli Rehn, e qui chiaramente c'è qualche già tremore. Sperende no. Oppure anche l'attuale presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, anche lui potrebbe essere un candidato. Più moderato di Katainen e di Rehn, però comunque chiaramente è la linea più rigorista. Moscovici sarebbe forse più gradito all'Italia, potremmo dire. Sì, diciamo all'Italia, adesso non è che i mondiali sono finiti, però diciamo ha un'Europa che vuole puntare anche sulla crescita e su politiche per la crescita, al di là della retorica anche oggi ascoltata da Juncker. Grazie, dalla voce di Juncker. Grazie a Sergio Nava. A chi mi dice, ma insomma, non, lei ha detto dumping sulla RAI? No, ho detto semplicemente che in quel settore si parlava dei ricavi del mondo dei media. C'è un operatore che ha un riceve ricavi anche dal canone. Volete sapere se lo ritenga giusto o no? No, non lo ritengo giusto. Cioè, ritengo che se devo pagare il canone, e lo pago per il servizio pubblico. Allora mettiamo un bollino in chi fa servizio pubblico. Facciamo servizio pubblico noi? Ballando sotto le stelle fa più servizio pubblico di Amici? Non mi sembra, poi ognuno può pensare come vuole. Allora mettiamo, diamo dei contributi a chi si impegna a dedicare una parte del palinsesto al servizio pubblico e così riceve i contributi, che sia Sky, che sia Mediaset, che sia Rai, che sia Radio 24. Se no, dire che i soldi vanno per il servizio pubblico, non mi sembra che la Rai faccia solo servizio pubblico. Almeno ci dicesse quali programmi vengono finanziati con il nostro canone. Ma comunque, la puntata oggi termina qui. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. E intanto, comunque, in bocca al lupo. Radio 24. La passione. Si sente.